Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar Giannino. Caro Alessandro e cari ascoltatori. Io ho già fatto arrabbiare, tutti mi stanno subissando gli insulti, tutti gli amanti degli animali, come se io non lo fossi, peraltro. Una micia fantastica. Ma perché hai parlato della crisi Volkswagen? No. Ecco, si chiama diesel. Sì, ho parlato di diesel, a cui va tutta la mia comprensione, il massimo rispetto e il massimo dispiacere, come ho detto. Ho aggiunto, era solo un cane. Nel senso che tutti coloro che non avranno neanche sparso una lacrimuccia, non hanno acceso una candela per i poveri uomini, donne, bambini uccisi in tutto il mondo, non a Parigi. Però ecco, a me fa pensare quando però muore un cane. Oh, un cane. È un uomo? So. È un uomo, un bambino? Un vecchio? No. Hai ragione da una parte, e poi. Però c'è anche un elemento però che ci dovrebbe rassicurare. No, perché la gente che si commuove per la vittima, un cane, il giorno che muore un giornalista, quindi per assonanza. Ecco, per assonanza dovrebbe. Ci iscriviamo alla solidarietà, cari ascoltatori. Che santo è oggi, caro oggi Oscar. è un martire, e a proposito di martire, perché anche lui era un martire, insomma, a farlo fuori era un imperatore, insomma, Diocleziano, però è San Fausto. Anche qua ce ne sono un'infinità di San Fausto, Antiochia, ci sono martiri di tutti i tipi, ma questo qua è il martire ucciso dall'imperatore Diocleziano. San Fausto. Diamo subito il numero per intervenire: 800 24 00 24. Parleremo anche oggi di Parigi, gli sviluppi. Non di diesel, però. Non ci chiamate diesel, su questo. No, magari diteci la vostra, visto che Della Valle annuncia per l'ennesima volta che vi dirà più avanti che cosa vi annuncerà che farà in politica. Ma se vi attira, potreste io dirci la vostra. Io non l'ho mai capito. Perché dire c'è una fondazione e a giugno, ma a giugno sono i tempi della politica, in genere sono veloci, già vuol dire quindi alle amministrative no, a giugno, cioè tra 8 mesi vi dirò che faccio. Perché come Montezemolo per anni, lui fa capire che alle prossime politiche chissà cosa fa, però è una cosa che non lo so, io considero Della Valle una persona, ma insomma non si può giocare a scacchi così solo per un show, per favore. È un po' troppo, dice, un po' troppo in anticipo. Ragazzi, qui il sindaco del centrodestra di Milano resta Sallusti. Pare Alessandro Sallusti, ma perché non ci risponde? Ieri ha detto che non aveva tempo, forse doveva già organizzare le liste. Insomma. Le liste di G2? Non lo so, vi piacerebbe Sallusti, sindaco di Milano, o candidato sindaco, candidato, per, no, per però, chi è del centrodestra, ovviamente, per chi pensa che però possa essere. Pare che nella realtà, siccome poi si vedono e si incontrano, le cronache politiche raccontano degli incontri tra Salvini, Meloni, pare che a Milano la convergenza dei lupi è durato 5 minuti, e Marchini, il candidato di Berlusconi, la Meloni ha detto no, quindi parrebbe che Giorgia Meloni si dovrebbe candidare a questo punto anche a Roma, però Sallusti pare che sia il candidato. Può essere l'uomo che mette insieme il centrodestra a Milano? Così dicono le cronache. D'altronde ci avevano provato con Del Debbio. Evidentemente. Del Debbio alle nazionali ha detto. Sì, però è un segno che. Cioè, le redazioni del Cavaliere occupano tutti gli incarichi politici nazionali milanesi. No, che non vuole scegliere un politico per un politico fatto e finito per, come non sindaco. Perché ha tentato un corteggiamento con Del Debbio. Che allora, non questa è l'ipotesi A. L'ipotesi B è che, come vedi, Berlusconi fa sempre nomi dei propri dipendenti. Ah, no, perdona, ma questo non è così secondario. Naturalmente, viva l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti. Però a Berlusconi questo faccenda proprio non ci riesce a non concepire i candidati come. Però pare che su Sallusti Salvini possa dire di sì. Come sarebbe stato disponibile a dire di sì a Del Debbio? Pare. Pare di sì. A Torino non ho ancora capito perché invece c'è ancora una questione aperta. Però detto questo. Comunque ci si muove sulla politica da questo punto di su vista. questi nuovi, queste grandi prospettive. L'intervista a Casaleggio, ti è piaciuta l'intervista a Casaleggio? Allora, io ho letto l'intervista a Casaleggio in rassegna stampa. Secondo me ha detto delle cose non sconvolgenti. No, il leader del movimento è il movimento stesso, non ci sono i nomi. Forse la cosa più interessante è che tra 5 anni starò più in famiglia e curerò un bosco dimesso, un bosco che ho comprato. Cioè, forse a dire che anche tra 5 anni anche Casaleggio. Vabbè, ma è come della Valle, cioè, farà un po'. Cioè, le novità ci sono. Per il momento restano al comando e la linea la do io. Non lo so, in alcuni passaggi mi ha molto colpito perché era un singolare mix di ingenuità e durezza. Se tu leggi delle risposte, per esempio, che dà sugli immigrati e così via, da una parte sembra che ci siano aperture quasi libertarie, però coniugate con il volto di dover rassicurare, con lo stato duro e così via. È un singolare mix. Io credo che su questo il Movimento 5 Stelle non abbia delle linee precise, sono un po' delle schegge, no? E ognuno è portatore delle proprie culture, destra, sinistra. Sicuramente c'è una componente, Casaleggio non è la prima volta, possiamo definirla di destra, sì, di durezza. Questo dicevo, è travestita con una, come devo dire, carta croccante, ma dentro il nucleo della caramella è tosto bello pesante. Del resto abbiamo un altro piano di quelli chiarissimi, come quello di Ravalle, come l'intervista di Casaleggio, il decreto periferie di cui ha parlato il presidente Così. Ma che caspita è? Ma tu hai capito? Questo l'ho capito poco, credo che voglia dire. Non c'è niente di comprensibile nelle notizie politiche che stiamo dando oggi. Per sconfiggere il terrorismo ci vuole un grande piano per risanare le periferie. Se questo porta a dire, come si dice in Francia, che vivere nelle banlieue ti porta, capito, sta grande novità, a farti brillare come un kamikaze, io sono imbufalito di fronte a queste letture. Proprio mi pare che abbiamo scoperto l'acqua calda. Non ho mai visto un operaio che vive a Quarto Giaro, col massimo rispetto per Quarto Giaro, di periferia di Milano, un pochino più disagiata rispetto al centro, che per questo motivo, dopo una vita di stenti e di difficoltà, si fa brillare e si fa saltare in aria. O meglio, questo c'è stato, è la classica interpretazione, no? Tutta colpa della società, che avremmo dovuto lasciare, no? nel giacimento dei luoghi comuni già decenni. A meno che non sia in realtà un grande piano per dare soldi, per fare mattoni nuovi, implica Renzi alla sua banda queste cose. A proposito di soldi, ti voglio fare questa domanda, caro Oscar. Il presidente Juncker, Commissione Europea, ha detto che gli stati che investono nella sicurezza potranno sforare il patto di stabilità. La Francia ovviamente già lo farà. Renzi ha detto giusto. Anche noi. Che succederà in Italia? Non so, a Firenze un po' di amici assumeranno nuovi agenti segreti, no, immagino. Dici così. No, mi colpisce il fatto. La Francia lo fa, nel senso che l'ha annunciato e ha detto e così sarà. La Commissione Europea batte i tacchi. Benissimo. Però la Francia lo fa. Ieri mi sono, ahimè, poco divertito a scrivere un articolo che oggi è sul Messaggero, un editoriale, esattamente comparando le spese per sicurezza e difesa Italia e il resto d'Europa. Allora, per avere un'idea, noi ovviamente il bilancio dei servizi AISE e AISE, le due costole interne e esterne, non li conosciamo, è riservato. Però la stima è che sia passato da 600 milioni 6-7 anni fa per via del turismo internazionale, del terrorismo internazionale, fino a sotto il miliardo. Per darti un'idea, l'altro ieri in Gran Bretagna il governo ha annunciato 2 miliardi di sterline in più solo per MI5, MI6, in più addizionali, e 1900 agenti in più, e spendono per la sola componente tecnologica, sorveglianza dei messaggi criptati, 3.9 miliardi di sterline. Questo si dà l'idea di quanto noi su questo siamo un po' fuori dal mondo, siamo dei nani nel mondo dei servizi internazionali. Però c'è sempre sullo sfondo la possibilità della guerra. Io ti vorrei far sentire, caro Oscar, ai nostri ascoltatori, due brevissimi passaggi di Salvini e Renzi. Sentite, Salvini. La guerra è tra loro? No, la guerra all'ISIS, ovviamente. Salvini. Se vuoi, in 15 giorni, non lo dice Salvini, in 15 giorni li elimini dalla faccia della terra. Il problema è quello che succede dopo, Salvini. 15 giorni per Salvini, cioè a Natale siamo tutti tranquilli, 15 giorni. Ma diamogli un incarico. No, infatti, Renzi risponde così. Quelli che dicono andiamo e bombardiamo, verrebbe voglia di dire prima intanto mettiamoci d'accordo su chi bombardiamo. Cioè... ecco, io da 2 o 3 giorni uso l'armata Brancaleone per iniziare la trasmissione alle 6.30, perché un po' dà l'idea, no? Di un'Italia che è sempre un po' sconnessa, sempre un po' reagisce in maniera molto così istintiva, così emozionale. Cioè, nel senso che, voglio dire, è una vivida alternanza tra rodomontate che non stanno né in cielo né in terra. perché dire da parte di Salvini in 15 giorni risolvo tutto, ma no, dai, Mastrolindo sembra la pubblicità del pulire il bagno, anche la Francia lo farebbe, e dall'altra farebbe. Alle Rodomontates risponde con la classica sofistica che dice: ragazzi, lì ISIS, oh amici, amici, manina, amici, ecco, cioè È così. Ieri è comparso anche Bashar Assad al TG1, che ha fatto un'intervista al presidente siriano. Ha detto anche delle cose. Beh, insomma, intanto complimenti al TG1 che ha fatto questo scoop. Al presidente Arai. È andato il presidente Arai, Monica Maggioni. È andata personalmente anche lei. E Assad ha detto: l'ISIS è colpa degli Stati Uniti. Questa sì, è la frase più forte. La frase più è forte, questa, mi pare di capire. E dice che lui è pronto a concorrere alle elezioni. Sì. Alle elezioni, ecco. Effettivamente. Ma guarda che secondo me nel trasformismo medio orientale prima Assad era Assad. Io sono d'accordo con chi dice chiunque pensi che ha ipotesi di transizione tenendo la Siria unita non va da nessuna parte. La Siria è destinata, come bisognava fare con l'Iraq, intervenendo in Iraq bisogna separarlo. Certo, l'area del sud rispetto a quella in cui si concentravano i sunniti, c'è un'area del sud più sciita, e la Siria non esce anche lì dalla logica di una soluzione possibile senza interventi di questo tipo. Intanto sentiamo Robert, ci chiama da Roma, l'800 24 0024. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io vorrei fare una precisazione sul discorso dell'ISIS. Ho sentito ieri un signore siriano di musulmano che è sposato in Italia, pure io sono libanese, cristiano, è sposato con una donna italiana, vivo in Italia da 40 anni. Sì. E sul discorso dell'ISIS, io secondo me dovrebbero essere musulmani stessi a combattere l'ISIS, non vogliono passare per terroristi tutti, cioè nel senso che adesso diventa un problema per tutte le persone musulmane che ci sono in Europa che vanno passate per terroristi. Allora è giusto che i paesi musulmani, la Turchia, l'Arabia Saudita, che appoggiano l'ISIS, sembrerebbe che sia così, dovrebbero combattere loro l'ISIS. Non è che tocca ai cristiani combattere l'ISIS. Nel momento però in cui Hollande dice la Francia è in guerra, ci hanno colpito, sono venuti qui in nome dell'ISIS dicendoci voi siete in Siria e noi ci facciamo saltare in aria nelle vostre città, a quel punto è una discussione, Oscar. Beh, se dobbiamo intervenire in prima persona, però ci hanno portato certamente in casa questa guerra, non è che certo, possiamo far finta che... Ma come mai questi paesi musulmani che non dicono una parola contro l'ISIS e non fanno niente contro l'ISIS? Questo è il grande tema. Abbiamo detto che in Arabia Saudita l'ISIS è considerato un'organizzazione terroristica formalmente, poi però l'Arabia Saudita, Oscar, è l'Arabia Saudita, è un grande finanziatore diciamo comunque di fazioni dell'estremismo sempre sunnita. E oggi sai cosa dice Casaleggio in quell'intervista? Non bisognerebbe fare affari con l'Arabia Saudita. Ricordiamo che Renzi è stato in Arabia Saudita, in pregino, insomma facciamo grandi affari e grandi commesse economiche con l'Arabia Saudita. Che ne pensi di questa visione? Infatti dicevo, quando parlavo dell'intervista di Casaleggio parlavo di questo singolare mix, da una parte ingenuità quasi molto progressista vecchio stile, dall'altra durezza. Questa la metto nella prima categoria, no? Ma un pochino sì, perché un conto è sottolineare non possiamo armare quei paesi che finanziano, un altro conto è dire sì, ho capito, il petrolio, il gas, sai, noi il gas lo prendiamo dall'Algeria e dalla Russia, quasi condizioni a volte obbligate. Altri conti è chiudere gli occhi di fronte a come ISIS ricava i denari, e lì allora ha ragione, però lui la mette in un modo come dire, cioè, come dire, non andiamo neanche in Arabia Saudita, non mettiamo piedi in Arabia Saudita. Peraltro secondo me segnaliamo comunque che oggi la stampa ha fatto un signor mestiere di informazione, perché ci sono queste pagine, due pagine piene di dati sulle vittime del terrorismo, sottolineare che le vittime sono decuplicate dal 2001 e che solo il 2,6% in Occidente dà l'idea esattamente della cosa di cui parla anche il nostro ascoltatore. Allora, ridiciamolo, perché sennò la gente è nel terrore. Il 2,6% delle vittime dal 2001 a oggi, delle vittime del terrorismo, sono in Occidente. 2,6 vuol dire che il 97,4 non sono in Occidente, sono soprattutto nei paesi. Cioè, nel 2014, per fermarci all'ultimo anno di cui abbiamo i dati completi, 32.685 vittime, di queste 32.000, 9.900 in Iraq, 7.500 in Nigeria, 4.500 in Afghanistan. Ecco, questa è la dimensione dell'impatto vero del fenomeno del terrorismo islamista. Mario da Campobasso, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, dunque, il sistema occidentale è sicuramente intimamente integrato dal punto di vista economico e con quello del mondo arabo musulmano, proprio questo ascoltatore lo stava dicendo e voi lo stavate dicendo. Io credo che noi occidentali dovremmo mostrare molta più onestà intellettuale nel gestire il nostro quotidiano in maniera da dare un esempio realmente positivo di una qualità di vita e di un mondo diverso, impregnato di principi di cristianesimo, di amore, di una vita che Mario che però mi perdoni, cioè che vuol dire? Sta facendo un po' una predica, ci permetta? Ma sì, c'è bisogno anche di una predica, nel senso che ecco. Noi ci e sono gli attentati, per esempio, di Charlie Hebdo, la situazione di Parigi di questi giorni, che si potrebbe verificare un po' dappertutto senza pensare agli obiettivi sensibili. Sì. Ma pensiamo a come viviamo e che esempio diamo. Ho capito, però Mario, guardi, no, nel senso, perché almeno scusi se la sfumiamo, almeno che sia la predica concisa e l'abbiamo ascoltata in religioso silenzio, però lei lo mette più su. No, caro Oscar, mi sembra di capire. Cioè, lei pensa che se ci comportiamo meglio il califfo si redime. Esatto. Cioè, credo che cosa vuol dire, Marco? Che messaggio vuol dare agli italiani? Comportiamoci in maniera più cristiana? No. Non è l'italiano in senso stretto, è semplicemente il nostro modo di vivere, nel senso che ogni giorno noi viviamo per interessi e non per logica delle. Cioè, che facciamo? Diciamo, commettiamo peccati? Però, caro ascoltatore, forse lo dimentica. Cioè, la nostra civiltà, che aveva un livello di violenza fino a pochi secoli fa, paragonabile in tutto e per tutto a quella che ci ripropongono oggi in altre parti del mondo, è stata capace in 3-4 secoli, non di più, di far evolvere degli anticorpi culturali, politici, istituzionali, religiosi, sociali, tali per cui il tasso di violenza lo abbiamo abbattuto. C'è una cosa che si chiama libertà. Capisci? Illuminismo. Che dobbiamo alle generazioni di chi è venuto prima di noi in questa parte del mondo, che si sterminava per religioni, per politica, eccetera, come tutto il resto del mondo. Adesso un po' meno, ecco, un po' meno, tutto qui. Però insomma, secondo me da Campobasso anche i nostri comportamenti sono. Sì, ma noi siamo anche questo, però. Sì, se ce lo dimentichiamo, sì. Diciamo sono che è colpa nostra. I comportamenti della libertà, esatto. Non è colpa nostra, esatto. Purifichiamoci da questa idea. Non è colpa nostra. Ve lo diciamo il Cardinal Giannino e Cardinal Milan. Ve lo diciamo noi. Diamo gli Oscar. Diamo gli Oscar. And the Oscar goes to. Io lo voglio dare a questo manager della cantina Sette Soli. Bravo. Raccontato dal Corriere della Sera, Sergio Rizzo. Sergio Rizzo è l'autore dell'articolo. Vito Varvaro è questo manager che vuole dare 50.000 euro alla Regione Sicilia per sostenere il parco di Selinunte, e la Sicilia dice: non abbiamo il regolamento per prendere questi soldi. Non manca il regolamento. Storie di burocrazia folle. No, ma sicuramente la prima volta che la Regione spinge 50.000 euro. No, starà sul piffero qualcuno, l'assessorato di Palermo, che lì a Selinunte dice: no, a quelli non glieli facciamo prendere. Ma è sicura, guarda, ci metto la mano sul fuoco questo. Esatto. Allora, io invece, questa travolgente cosa di notizia, ovviamente l'attenzione altrove, devo per oggi darlo al Foglio, che oggi fa una pagina sulla concorrenza conculcata in Italia, visto che il disegno di legge concorrenza è stato per l'ennesima volta smontato in Parlamento, e fa scrivere, praticamente siamo tutti amici diretti, quattro gatti liberisti. Perché troverete Alberto Mingardi, Alessandro De Nicola, caro Alberto Carnevale Maffè, però tentiamo di ricordarvi alla politica e a tutti voi che un po' di concorrenza in più servirebbe. Servirebbe. E va bene, allora dopo questi Oscar noi avremo ospite Piero Stellino del giornale e Zedine Elziri, mam di Firenze, tra poco dopo la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Sono le 8:41 minuti, caro Oscar Giannino, eccoci qui. Ieri ieri ti ha colpito, prima mi dicevi, questo appello di un imam, l'imam di Pordenone. Di Pordenone, sì. Monfalcone. Sì, effettivamente, di Monfalcone, che ha fatto questo appello che vogliamo sentire. È arrivato il momento che noi facciamo la nostra parte per dimostrare che l'Islam non ha nessuna relazione con questi fatti. Questi fatti non fanno parte dell'Islam. Questa è una cosa barbaria, assassini, che per me non sono musulmani, perché uno che va contro gli insegnamenti dell'Islam non è musulmano. Si chiama Abdelmajid Kinani. Però barbari, barbari assassini. Dire i jihadisti sono barbari assassini, e non ripetiamo, sono musulmani. Barbari assassini. Avercene nel mondo musulmano delle voci che dicono cose con questa durezza, insomma. Assolutamente sì. Vogliamo salutare tra l'altro un ospite editorialista del giornale, Piero Ostellino. Buongiorno e benvenuto, Ostellino. Buongiorno, grazie. Ci vorrebbero più persone così, più persone, o meglio, esiste un Islam moderato e fa fatica ad emergere, secondo lei? Beh, non so che cosa voglia dire se esiste una sfera moderata, insomma, la grande maggioranza degli italiani credo che lo sia, tutto sommato. Quindi c'è che parte abbia difficoltà ad emergere perché non c'è nessuno che la raccoglie. Non c'è nessuno che la raccoglie. In che senso? Ma nel senso, nel mondo musulmano non c'è. No. Diciamo così, nella parte non teocratica del paese, insomma, ecco. Se una volta c'era la democrazia cristiana, adesso non c'è più. Ah, ecco, ma questo dal punto di vista dell'Italia, voglio dire, però nei paesi musulmani il dibattito è se esista un Islam moderato, un Islam in grado di dire quello che ha detto questo imam, e cioè dire che sono dei barbari assassini. Ma in realtà l'Islam non è moderato, l'Islam è una teocrazia, cioè è una trasposizione della religione a livello politico, cioè determina una identificazione tra politica e religione. Beh, un Islam moderato io francamente non riesco a vederlo. Non riesce a vedere un Islam moderato. Qua, Oscar, è il tema che si dibatteva da alcuni giorni, cioè se la religione c'entra, e abbiamo detto di sì. La religione c'entra come? E questo mi fa difficile poterlo scartare come ipotesi. Però che esista un Islam moderato e che si faccia sentire, insomma, per Ostellino non è così. Però che dovremmo fare? Ha sentito le reazioni dei politici, per esempio Salvini che dice andiamo lì in 15 giorni, li facciamo fuori? Sembra una reazione giusta, una reazione condivisibile? Oppure... è l'unico rapporto che può esserci con quelli che vengono a spararci, insomma. Cioè andare lì a colpire, ma andare lì a colpire chi e dove soprattutto? I centri di addestramento di questi qui. Quindi soprattutto in Siria? In qualsiasi parte siano. In Siria, anche in Iraq, immagino. Ostellino, anche in Iraq? Come? Anche in Iraq, quindi. In qualsiasi parte siano, cioè noi siamo a confronto con una concezione teocratica della vita civile, insomma. Sono due concezioni del mondo, la nostra e la loro, profondamente diverse. La nostra è quella che assegna alla politica non una funzione morale, insomma, semplicemente una funzione di gestione dei conflitti. Sì. La loro invece è quella che assegna alla politica una funzione morale, cioè che diventa politica. Cioè, mi sembrano due versioni anche inconciliabili, Oscar. Tra l'altro l'audio si sente anche poco. Vediamo di migliorare l'audio anche di Piero Stellino, perché facciamo fatica un po' a sentire, e credo anche gli ascoltatori. Cioè, capire se esistono, Oscar, dei due mondi inconciliabili. Su questo non lo so. No, se la lettura è questa, il problema diventa a quel punto anche di chiudere. Come si fa con i musulmani che sono presenti qua? Bisogna immaginare che siano dei simulatori. traditori, per così dire, e quindi ci sono problemi non di integrazione, ma di integrazione impossibile, per così dire. Cioè, capire anche se l'imam di Monfalcone che dice queste cose, dobbiamo credergli, questa è poi anche un dibattito, cioè dobbiamo chiedere se l'imam di Monfalcone dice una frase del genere. Io tendo sempre, perché sono un buono, a credere a quello che le persone dicono, ma dobbiamo credere. No, esistono anche delle tattiche di dissimulazione, come ovvio, però oggi per esempio sulla stampa francese si dà un certo spazio alle parole che sono analoghe a quelle dell'imam di Monfalcone che noi abbiamo ascoltato, che sono state pronunciate invece dall'imam di Bordeaux, Tarek Oubrou, e testualmente anche lui dice i jihadisti sono come gli anarchici dell'Ottocento, cioè quelli che facevano gli attentati dovunque, o meglio, ha detto testualmente, come i membri dell'internazionale comunista, ma con tanta violenza in più rispetto ai comunisti. E sui giornali francesi questa cosa ha avuto un eco. Perché? Perché come vedi, Rimano di Bordeaux parla una lingua che è quella della politica degli intellettuali e degli acculturati europei e francesi, per così dire, no? Piero Stellino ci dà una lettura completamente diversa. Piero Stellino dice no, io ragazzi non credo alla possibilità che esista una vera... crede a una inconciliabilità tra questi due modelli radicalmente diversi. Il nostro ha incorporato una laicità nel discorso religioso e soprattutto nel discorso di chi comanda nelle società, lì l'interpretazione è un discorso brutalmente teocratico, è la religione che detta tutto. Però capire, Ostellino, per chiudere, la Francia va bene quindi a bombardare, cioè dovremmo fare un'azione militare e la reazione francese è quella giusta? Ma dipende dai risultati, se un atteggiamento come quello francese risolve il problema è giusto, se non lo risolve non è giusto. Chiaro, ma questo come facciamo a scoprirlo? Lo si vede dopo, insomma, se dobbiamo vedere quello che è successo per esempio anche in Iraq, non mi sembra, no, se dobbiamo prendere la lezione dell'Iraq, caro Oscar, a meno, io questa è la mia idea, tu partivi da un punto di partenza dicendo la missione d'Iraq era giusta e poi dici io l'ho sostenuto l'intervento come reazione, dico che poi gli errori fatti nel dopo, cioè nel non avere un'idea praticabile di nation buildings, sono errori che noi paghiamo in tutto il mondo musulmano oltre che in Iraq. L'idea era appunto quella che secondo me bisogna fare anche in Siria, realisticamente procedere a delle divisioni di identità nazionali nate nel postcolonialismo, righello alla mano, visto che il nord e il sud, la zona dove c'erano i sunniti filo Saddam e la zona dove c'erano gli sciiti filo iraniani, come si vede insieme non ci stanno neanche in Iraq. L'abbiamo consegnata all'influenza iraniana sciita, ma perché non abbiamo saputo elaborare gli americani, ma tutto l'Occidente, un piano. Se si commette lo stesso errore in Siria saremo allo stesso al bis. Il timore è questo. Volevo sentire ascoltatori. Silvia da Roma, buongiorno Silvia. Buongiorno. Eccoci. Io volevo fare un piccolo intervento su un'esperienza a Saint-Denis, perché la scorsa estate durante un viaggio in bicicletta siamo passati per Saint-Denis, dove c'è una delle più belle cattedrali di Francia, cattedrale gotica con sepolti re di Francia, ma si arrivava in questo paese che è veramente a 2 chilometri dallo Stade de France e sembrava di essere in un paese non so dove, del Mediterraneo, dell'Africa, dell'Africa senegalese piuttosto che del Marocco, completamente abitato, come negozi, gestito, tutto quanto solamente da immigrati, esclusivamente. Presidiato dalla polizia, perché la polizia, noi eravamo in bicicletta, ci hanno avvicinati e ci hanno detto attenti au velo, alle biciclette, ma era un'esperienza quasi straniante, perché a 20 chilometri da Parigi ti trovavi in posto e non capivi dove essere, sembrava di essere in Francia. Ma guardi Silvia, va bene per l'esperienza. Però, Silvia, è un'esperienza comune nelle grandi città europee o meno? No, anche perché se viene a vivere vicino a casa mia, io abito vicino a Viale Padova a Milano, se fa una vasca, chiamiamola così, in Viale Padova avanti e indietro, trova il 90% di commercianti stranieri di tutti i tipi. Cioè lei Silvia da che cosa, da questa esperienza cosa trae? Era diversa, io ho trovato, mentre i primi viaggi a Parigi ancora 35 anni fa davano un senso di integrazione della popolazione anche di colore, era la prima volta che vedevamo anche gente in metropolitana, impiegati, normalmente integrati, qui c'era una sensazione proprio di totale separatezza rispetto alla città di Parigi, un posto solamente abitato da una divisione, solo una divisione proprio. Io continuo a dire, a grazie ragionare Silvia, con i nostri ascoltatori, grazie Silvia. Guardate, la cosa della mancata integrazione sociale non spiega il modo in cui le tecniche nuove e diverse del jihadismo di ISIS o del Daesh hanno moltiplicato verticalmente gli adepti in Occidente rispetto a tanti anni in cui Al-Qaeda, Osama Bin Laden, Zawahiri e così via ce lo sognavano di avere tutti questi sostenitori. Quindi capisco che immediatamente la testa, gli occhi, le reazioni politiche vadano al fatto è la mancata integrazione, sono troppi islamici concentrati e così via. Di fatto non è questo che spiega il fenomeno. Sono d'accordo con te, Oscar. Cioè il pericolo è chiaro che nel disagio uno può abbracciare qualsiasi tipo di disperazione. Però non è che arriviamo poi a dire attenzione che queste periferie degradate portano poi la gente a farsi saltare in aria, con un percorso più elaborato eccetera di quello sintetico che propongo io. Però il rischio c'è se uno la mette così, no? Però noi sbagliamo, perché basta dare tutto a Salvini e in 15 giorni pat, tutto risolto. Sì, infatti, come abbiamo detto prima, l'ISIS non mangerà il panettone, per utilizzare un'espressione calcistica. Perché non proponiamo a tutte le trasmissioni, ma se è così va fatta sta qua, 15 giorni, certo. Ragazzi, ascolto, ma chiunque, Hollande fa bene, poi votate cosa volete alle elezioni, ma in 15 giorni regaliamo al mondo la soluzione del problema, il che vuol dire che noi non arriviamo neanche al ponte di Sant'Ambrogio a Milano ed è tutto risolto. Quindi la prima della scala sarà tutta tranquilla, senza bisogno di metal detector. Ma questa 15 è qua, quando la politica non ha senso dice che in 15 giorni pur di mi dispiace dirlo, perché voi adesso chi ascoltate pensate ce l'ho solo con Salvini. No, perché anche Renzi che dice decreto periferie, cosa vuol dire? Buh. Dice noi, anche noi l'intelligence. Bene, cosa stai facendo? Buh. Noi ce l'abbiamo con chi ha poca chiarezza di idee, tutto qua, e che mi sembra nel panorama abbastanza diffusa nel panorama abbastanza politico. Direi, sì, abbastanza. Non lo so se c'è spazio per Colombo da Ferrara, ma deve essere molto sintetico. Colombo, grazie. Certo, buongiorno. Buongiorno. Se processassimo Bush e Tony Blair per crimini contro l'umanità, vabbè, e risolveremmo il problema dell'ISIS. Ma dai, Colombo, dai, l'ISIS nasce da quello. Io dico è un errore fatto dopo. Vogliamo processare Tony Blair? Benissimo, processiamo. Che è quello che ha detto, abbiamo forse sbagliato. Il Papa ieri ha detto no alle porte blindate. Avevano triplicato i controlli e c'era la piazza mezza vuota. Questo, anche il Papa ha un qualche problemino nel vedere. Però attenzione, perché il Papa ha rifiutato la macchina blindata. Però è inutile. Invece i controlli vanno fatti in più, per favore, sì, caro Papa. Facciamoli i controlli. Esatto, perché la gente ha paura, c'hai la piazza mezza vuota pure tu, infatti. Va bene, ci dobbiamo salutare qui, ci troviamo domani mattina puntuali. Continuate con Radio 24, con Miss 24, Giovanni Minoli e naturalmente Secchi e Pietrangelo Buttafuoco.